TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Muggia si è fermata per l'ultimo saluto al piccolo Giovanni, ucciso a 9 anni dalla madre. Il Duomo è gremito. Don De Stradi, il parroco che ha celebrato le esequie, ora si chiude il capitolo e se ne apre un altro, quello della chiarezza che dovrà essere fatta nei tempi e nei modi giusti. La giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Dal 2019 il codice rosso prevede anche un'accoglienza rapida negli ospedali. Il percorso all'ospedale triestino di Cattinara. Serve un'educazione affettiva per le nuove generazioni. La testimonianza di Fernanda Flamigni, che 30 anni fa venne gravemente ferita dal marito che aveva appena lasciato, il giornalista Graziano Scialpi, che uccise la sorella Giovanna. A Udine ha firmato un protocollo che unisce 23 enti in realtà nel contrasto alla violenza di genere tra forze dell'ordine, procura, università, comune, azienda sanitaria, ordini degli avvocati e degli psicologi. Morto alla tisana, l'ex portiere del Milan e dell'Inter, Lorenzo Buffon, avrebbe compiuto 96 anni tra pochi giorni. 5 volte campione d'Italia, era lontano parente di Gianluigi Buffon. Ancora un cordiale buongiorno da Daniele Lettige e da Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. In apertura andiamo subito a Muggia per i funerali del piccolo Giovanni ucciso dalla madre. Ampia la partecipazione, presenti anche il presidente della regione Fedriga e i sindaci di Trieste e di Muggia. A celebrare le esequie il parroco Don De Stradi, che ha sottolineato: oggi è il giorno della preghiera e dell'abbraccio. Presenti anche molti compagni di scuola del bambino. Ma oggi è anche il giorno dell'interrogatorio di garanzia della madre Olena Stasiuk. Anche il cielo oggi piange a Muggia, bagnata da una pioggia fitta, entrata in Duomo la bara bianca dentro la quale riposa per sempre il piccolo Giovanni, oggi il figlio di tutta la comunità. E la comunità, infatti, silenziosa e triste, si è messa in fila per un abbraccio, una parola dolce di vicinanza al papà Paolo Trame, che ha perso il figlio nel più brutto dei modi, ucciso dalla mamma Olena Stasiuk, che proprio nelle ore in cui a Muggia si svolge il funerale del bambino, lei risponde delle sue azioni davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia. Il primo dal giorno dell'omicidio, il 12 novembre, poiché la donna praticamente da allora è ricoverata e piantonata in ospedale, la sua condizione psichica sarebbe incompatibile con la custodia cautelare in carcere, potrebbe compiere gesti estremi. Lei, che ha agito contro il figlio approfittando delle poche ore che con lui poteva trascorrere sola, senza più la presenza di un educatore come il Tribunale di Trieste aveva concesso. Il papà di Giovanni ha solo che da insegnarci, ha detto Don Andrea De Stradi, parroco di Muggia, perché in questi giorni così drammatici non ha mai rivolto parole di odio e vendetta, ma di giustizia sì, il tempo di far luce e chiarezza arriverà. E lì l'applauso forte dei presenti, rivolti con gli occhi bagnati di lacrime a quel papà che da anni aveva la custodia prevalente del figlio. Fu lui 2 settimane fa a chiamare disperatamente i soccorsi quando vide che la donna non aveva riconsegnato il figlio all'orario stabilito. Il male non si spiega, il male si combatte, ha detto Don Andrea, che da giorni viene fermato da fedeli, amici, comunità tutta, che ha assistito incredula a quanto accaduto proprio in quell'appartamento che si trova giusto davanti al Duomo, nella piazza principale della città. Presenti le forze dell'ordine, presenti le istituzioni, il presidente della regione Massimiliano Fedriga, il sindaco di Muggia e quello di Trieste. Muggia, Anna Vitariani, TGR Friuli Venezia Giulia. Accorcia i tempi delle indagini e fornisce maggiori tutele alla donna vittima della violenza. Dal 2019 il codice rosso prevede anche un'accoglienza rapida negli ospedali. Per incoraggiare le donne a denunciare e a chiedere aiuto, oggi, in occasione della giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, siamo andati a vedere come vengono accolte le donne al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. La donna vittima della violenza di genere che si presenta al pronto soccorso viene accolta dal personale adeguatamente formato, che la inserisce immediatamente in un percorso di protezione dove viene garantito l'anonimato. La dottoressa Raffaella Gobbato, responsabile struttura semplice medicina d'urgenza al pronto soccorso di Cattinara. La donna viene allontanata dal triage in un luogo affollato dove ci sono occhi indiscreti. A volte le stesse donne vengono accompagnate dall'aggressore. Quindi le si allontana dal triage, si avvisa il medico del pronto soccorso. Se il medico del pronto soccorso è impegnato con altre urgenze, e questo succede nella maggior parte dei casi, la donna viene accompagnata e mai lasciata sola presso il reparto di medicina d'urgenza. Le donne possono presentarsi anche con i figli all'ospedale, dove rimangono finché, in collaborazione con il centro antiviolenza e le forze dell'ordine, non viene trovato per loro un posto sicuro e protetto dove rifugiarsi. I minori accompagnano la mamma, noi quando la mamma viene visitata e fa degli accertamenti comunque li intratteniamo facendoli giocare oppure guardando un film, e quindi mi sento di rassicurare le donne dicendo che possono venire con i figli, perché anche i figli hanno diritto a una protezione. Noi vediamo solo la punta dell'iceberg, spiega la dottoressa Gobbato quando ci racconta che dal 2020 ad oggi ha accolto circa 700 vittime della violenza perpetrata nel 60% dei casi da uomini italiani. Ci sono casi di ragazze molto giovani che iniziano relazioni precoci e donne anziane che riescono a chiedere aiuto solo dopo tanti anni di sopruso e di maltrattamento. La maggior parte della violenza viene eseguita in ambito familiare, da partner o ex partner. E il periodo più delicato è il periodo della separazione. Questa è una fase in cui bisogna stare molto attenti. Qui si registrano i maggiori femminicidi in base ai dati Istat. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. Fernanda Flamini aveva 29 anni quando fu quasi uccisa dal marito, era il 1996 a Trieste. Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Fernanda Flamini ha raccontato la sua storia nel nostro programma Buongiorno Regione, sentiamola. Sono passati quasi 29 anni da quel 21 dicembre del 1996. Fernanda Flamini, allora 29enne, con suo figlio di un anno tra le braccia, subisce l'ultima e la più tragica violenza da parte del marito, che aveva da poco lasciato. Graziano Scialpi, giornalista precario, entra in casa sua e spara alcuni proiettili. Uno colpisce lei, rendendola cieca a vita, l'altro raggiunge la sorella Giovanna, che muore. Una storia che Fernanda più tardi ha raccontato in un libro dal titolo Non volevo vedere. Io non volevo vedere la reale natura di mio marito, o meglio, non volevo vedere che quei suoi atteggiamenti aggressivi e prevaricatori, in qualche modo, non erano superficiali, ma erano profondamente radicati in lui. Dal 96 molte cose sono cambiate, rafforzate le leggi contro la violenza di genere, è stato introdotto il reato di stalking e nel 2019 il codice rosso. Io avevo fatto delle denunce per quello che adesso si chiama stalking, quella volta al massimo si poteva parlare di atti persecutori, perché dopo che avevo deciso di separarmi da mio marito mi ero rifugiata a casa di mia madre. E a quel punto cominciarono dei veri e propri atti di stalking, appostamenti, telefonate di minacce, una vera e propria minaccia a mano armata. Per Fernanda Flamini quello che dovrebbe cambiare è innanzitutto la cultura. Serve un altro modo di vedere la coppia, ecco. Siamo ancora ai livelli io Tarzan tu Jane, come dice un mio amico. Penso che possa anche essere molto utile proprio a livello culturale un'educazione affettiva delle nuove generazioni. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. E a Udine è stato siglato questa mattina in prefettura un protocollo per condividere le pratiche e mettere in comune le esperienze delle realtà associative cittadine proprio per contrastare la violenza di genere. Un documento la cui prima versione è del 2013 e che oggi è stato aggiornato su input della Procura per adeguarsi alle nuove norme sul codice rosso. Un protocollo che unisce 23 enti e realtà nel contrasto alla violenza di genere in provincia di Udine. Tutti quelli che già impegnati in quest'ambito delicatissimo possono contribuire a questa sfida. Stamani in prefettura a Udine, insieme al prefetto Domenico Lione, vi hanno apposto le loro firme. Prende vita così un'alleanza che è fatta di dialogo, di condivisione delle migliori pratiche, di collaborazione effettiva che sarà resa via via sempre più efficace. Le cronache raccontano ogni giorno di atti di violenza contro le donne, una vera e propria emergenza che, come tutte le emergenze, va affrontata mettendo insieme forze, competenze e risorse. Il protocollo serve a fare rete per mettere in atto azioni coordinate ed efficaci, spiega il prefetto Lione, tra le istituzioni pubbliche che sottoscrivendolo si impegnano a procedere in questa direzione: forze dell'ordine, procura della Repubblica, tribunale, università, comune, azienda sanitaria, ambiti territoriali, ordini degli avvocati e degli psicologi, rete scolastica, sportello di ascolto e associazioni che danno sostegno alle donne che subiscono violenza, ma anche a uomini maltrattanti. un confronto tra operatori al massimo livello per tracciare le possibili linee di sviluppo di questo impegno condiviso. Il primo passo sarà la costituzione di un gruppo di lavoro per seguire sia l'andamento del fenomeno che per coordinare le varie iniziative sul territorio. Prevista anche l'attivazione di un numero verde e il potenziamento della rete di assistenza per chi decide di denunciare, dalle procedure attente del pronto soccorso alle proposte di accoglienza protetta, dagli interventi di sostegno psicologico fino all'evoluzione delle attività di vigilanza delle forze dell'ordine. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Tra i numerosi appuntamenti di oggi, quello dedicato agli studenti questa mattina al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, la violenza di genere è stata analizzata anche attraverso alcuni passi del Trovatore di Giuseppe Verdi. A Udine, città in cui, come troppe altre in Italia, quest'anno c'è stato un femminicidio, quello di Samia Khedim ad aprile, si sceglie di combattere la violenza di genere con la cultura e con la musica, e soprattutto con l'educazione dei più giovani. Per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, al Teatro Nuovo le riflessioni su maltrattamento in famiglia, stalking, violenza di genere e revenge porn si alternano alle note del Trovatore di Giuseppe Verdi, forti, drammatiche, di una potenza espressiva eccezionale. Opera che riflette sulle conseguenze che ricadono sui figli e le figlie delle vittime di femminicidio. Fiorenza Cedolins, direttrice artistica della stagione di opera Operette Danza. È una storia terrificante, una storia in cui una donna all'origine della tragedia viene bruciata viva perché è accusata di stregoneria. Ecco che questa violenza si perpetra attraverso le generazioni successive fino alle catombe. Quindi alla fine tutti i personaggi coinvolti in questa storia vengono purtroppo risucchiati nel buco nero della violenza e ognuno paga attraverso sofferenza indicibile. Alla scuola media Manzoni, musica e scarpette rosse, disegnate e colorate dagli studenti della secondaria di primo grado, della primaria Dante Alighieri e delle persone coinvolte nel progetto di inclusione lavorativa Diversamente Bistrò. Rosaria Arfè, dirigente del terzo comprensivo di Udine. Cerchiamo di sensibilizzare i ragazzi già dalla scuola dell'infanzia. Infatti stamattina sono andata in una classe, un bambino mi ha detto: preside, c'ho il maglione rosso perché è oggi la giornata della violenza contro le donne, come tu il giacchino rosso. Quindi è importante, perché è un fatto anche soprattutto culturale. Sono sempre più rapporti malati in cui c'è questo possesso, questo concetto di possesso che non dovrebbe esistere. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Il caso Resinovic, interviene l'avvocato Nicodemo Gentile, che assiste Sergio Resinovic, fratello di Liliana, sulle dichiarazioni di un ristoratore in merito ai sacchi neri che la donna gli avrebbe chiesto mesi prima di scomparire. Non sono i sacchi neri a ostacolare l'ipotesi del suicidio. Il dottor Barisani, medico legale e consulente di Visintin, il marito di Liliana Resinovic, è stato infatti il primo a dire e scrivere che la moglie è stata picchiata prima di morire, dice l'avvocato Gentile. Il vero elemento, continua, che continua a sollevare interrogativi serissimi, non sono i sacchi neri, tra l'altro privi di qualsiasi impronta di Liliana Resinovic, ma il cordino, un reperto cruciale mai spiegato in modo convincente. Sarebbe opportuno che, su quel punto, è la conclusione dell'avvocato, il marito di Liliana Resinovic facesse definitivamente chiarezza. Solo allora si potrà insieme orientare l'attenzione verso pizzaioli che resuscitano circostanze ammuffite e traballanti e l'individuazione del carabiniere fantasma di cui si discute in queste ultime giornate. Sono stati identificati al termine di una lunga indagine della Procura di Udine due presunti responsabili di una serie di furti avvenuti lo scorso febbraio a Castions delle Mura e a Tor Viscosa, che avevano fruttato un bottino complessivo di circa 10.000 euro, oltre a numerosi gioielli in oro. Si tratta di due cittadini albanesi di 35 e 40 anni, entrambi gravati da diversi precedenti, che per compiere i furti si erano serviti di una potente berlina sportiva. E proprio investigando sull'auto, i carabinieri di Palmanova hanno individuato i due presunti ladri, che avevano la loro base operativa nell'Interland milanese, da dove partivano per compiere i furti in diverse località del nord-est. Per uno dei componenti del gruppo è stato spiccato un mandato di cattura europeo, mentre l'altro si trova già in carcere. Della banda faceva parte una terza persona che al momento non è stata ancora identificata. E ora la situazione del maltempo. È ancora in corso fino alla mezzanotte di oggi l'allerta gialla per rischio idrogeologico. Nelle zone colpite dalla devastante alluvione della settimana scorsa, lo iudrio è ancora osservato speciale, mentre i volontari continuano a lavorare nelle case e nelle cantine. C'è molta preoccupazione, in corso l'allerta gialla per piogge intense e localmente molto intense. Si potrebbero aggravare i dissesti conseguenti alla recente alluvione nel Coglio e nel bacino dell'Iudrio. Il torrente è tornato al di sotto dei livelli di guardia, ma desta forte preoccupazione. Un'idrovora è pronta all'utilizzo a Versa. Il sindaco di Romas di Sonzo, Michele Caligaris, al momento segue l'attività di monitoraggio delle squadre di protezione civile. Volontari, una trentina all'opera nel ripulire i locali e i macchinari di un'azienda vitivinicola. Le cantine sono state completamente sommerse, quasi 1500 metri quadrati. Diverse centinaia di migliaia di euro i danni, il sacrificio di una vita finito nel fango. In centro, presso la cucina da campo, operano i volontari dell'Associazione Nazionale Alpini e della Protezione Civile. Abbiamo sentito il coordinatore della Protezione Civile, Luigi Ziani. Non dovrebbero esserci criticità. Per quanto riguarda noi, ci siamo spostati come baricentro dalla palestra di Romans, siamo venuti qui al centro di Versa. Ho visto che il torrente si è ingrossato notevolmente. L'unica cosa buona è che in montagna ha nevicato, quindi non dovrebbe venire tanta acqua. Però per il momento siamo ben a posto, non dovremmo avere nessun problema. Appena fuori dall'abitato, i camion continuano a portare masserizie, elettrodomestici vari, libri e ricordi. Da Versa, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. E diamo un'occhiata al tempo, il cielo da nuvoloso a coperto sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 11 gradi, a Gorizia 10, a Udine 9, a Pordenone 7,5, a Tolmezzo a Piancavallo 5 gradi, a Forni di Sopra 2, a Tarvisio 1 grado e 5 decimi, a Sappada 1, sul Monte Zoncolan 0 gradi, sul Monte Lussari meno 5 decimi di grado, a Grado 10, a Lignano 7,5. Queste le previsioni. In giornata cielo in prevalenza nuvoloso con piogge sparse deboli o moderate. Sulla costa soffierà vento da sud o sud-ovest, in genere moderato. Vento da sud-ovest anche sui monti in quota. In serata bora moderata, specie sulla costa. Domani nuvolosità variabile con possibili piogge sparse, in genere deboli, e possibili deboli nevicate oltre i 700 metri circa. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata, più sostenuta a Trieste. Ora andiamo a Pordenone, dove la CISL ha fatto il punto sui diritti violati come il caporalato. Non solo sfruttamento sessuale, ma anche lavorativo, specie in campo agricolo, domestico e della logistica, di cui sono vittime soprattutto le donne immigrate. A Pordenone, una tavola rotonda per fare il punto sulla tratta e i diritti violati, organizzata dalla CISL con lo sportello antimobbing e il comune di Pordenone. Guglielmina Cucci, assessore ai servizi sociali e pari opportunità. La tratta è il fenomeno, un fenomeno di violenza di genere tra i più biechi, tra i più importanti e tra i più violenti, perché coinvolge donne e giovanissime, anche minorenni, costrette appunto a sfruttamento sessuale, lavorativo, che si intreccia anche con la violenza fisica, violenza economica e violenza psicologica. Il progetto FVG in rete contro la tratta dal 2016 al 2023 ha preso in carico 202 persone, di cui 156 donne vittime, sempre più giovani. Chiara Valerio è responsabile del progetto antitratta della cooperativa Nuovi Vicini. Mentre all'inizio le donne erano principalmente di nazionalità nigeriana e donne dell'Europa dell'Est, ultimamente si sta un po' diversificando le nazionalità. Infatti abbiamo iniziato ad accogliere anche molte donne provenienti dalla Costa d'Avorio, dal Nepal, donne marocchine. Fondamentale la sinergia tra enti pubblici e del terzo settore per rompere l'isolamento di chi subisce sfruttamento. La segretaria regionale CISL, Renata Della Ricca. Abbiamo fatto dei protocolli con la prefettura, con le associazioni, il terzo settore, il mondo del volontariato. Lavorando in rete, questi casi diminuiscono. La CISL sostiene anche la petizione Questo è il mio corpo per fermare la domanda di servizi sessuali a pagamento, introducendo la punibilità del cliente. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Gli spettacoli. Il violinista Fabio Biondi e il suo ensemble di fama mondiale, Europa Galante, hanno inaugurato ieri sera al Verdi di Trieste la 94esima stagione della Società dei Concerti, per un concerto all'insegna delle quattro stagioni di Vivaldi, ma non solo. suonare una musica che qualunque appassionato conosce a memoria, scoprendo e facendo scoprire al pubblico ogni volta nuovi dettagli e nuove sfumature. È la sfida di chi affronta su un palcoscenico le quattro stagioni di Vivaldi, che Fabio Biondi, insieme con il suo ensemble Europa Galante, ha messo a coronamento del programma che ha aperto ufficialmente il cartellone della Società dei Concerti di Trieste. Le quattro stagioni dell'essere umano, ha spiegato il violinista e direttore nell'incontro con il pubblico che ha preceduto il concerto. Poi nelle quattro stagioni troviamo tutto, troviamo la rabbia, troviamo la meditazione, troviamo il pianto, ed è proprio lì che diventa una gara straordinaria per raggiungere degli stati emozionali particolari. Un percorso nel barocco europeo che partiva da Michele Mascitti, un autore italiano attivo in Francia tra 600 e 700 e prima di raggiungere la Venezia di Vivaldi, passava da Roma e da Arcangelo Corelli e da Norimberga, città dove negli stessi anni Johann Pachelbel scriveva il canone in re maggiore, musica rigorosamente tedesca ma comunque piena di sole mediterraneo. Trieste, Andrea Bardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. Si chiama Includi e sarà presentato domani a Udine il progetto sviluppato da Federsolidarietà Friuli Venezia Giulia, la federazione delle cooperative sociali aderenti a Conf Cooperative, che mette a disposizione delle imprese una piattaforma di strumenti dedicati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, risultato di un percorso durato oltre un anno e mezzo. Secondo i dati della regione, le aziende soggette agli obblighi della legge 68 del 99 sull'inserimento lavorativo dei disabili sono 2.700 e, nonostante la crescita registrata negli ultimi anni, restano ancora 2.603 le scoperture rispetto alle quote di assunzione previste per le persone con disabilità. Le cooperative sociali aderenti a Conf Cooperative inquadrano oggi 823 lavoratrici e lavoratori svantaggiati, a cui si aggiungono borse lavoro e tirocini. Tra gli strumenti su cui Federsolidarietà sta investendo rientrano le convenzioni articolo 14, che permettono alle imprese di adempiere agli obblighi della legge affidando una commessa a una cooperativa sociale specializzata nell'inserimento lavorativo. In regione nel 2024 erano già attive 52 convenzioni che coinvolgono circa 130 lavoratrici e lavoratori. È morto a Latisana, in provincia di Udine, dove viveva, Lorenzo Buffon, per 10 anni portiere del Milan, con cui vinse 5 scudetti. A darne notizia la sua unica figlia, Patricia. Buffon avrebbe compiuto 96 anni il prossimo 19 dicembre. Dopo aver militato con il Milan, capitanato da Nils Liedholm, dal 1950 al 1960, nella sua lunga carriera indossò anche le maglie di Genoa, Fiorentina e Inter, oltre che quella della nazionale. L'ex sportiere era un lontano parente di Gianluigi Buffon. Buffon, ha spiegato la figlia, è morto per un improvviso arresto cardiaco. I funerali si svolgeranno in forma privata alla Tisana. Nel quarantennale dell'inaugurazione a Parigi di Trouvère Trieste, la mostra ideata e promossa dall'architetto Luciano Semerani, sarà presentato questo pomeriggio alle 17.30 al Circolo della Stampa di Trieste il libro Che ne pensi, con le risposte di Luciano Semerani a Gianni Peteani. Ed è tutto per questa seconda edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Laura Sarasini, per la parte tecnica in regia Riccardo Stoic e Mauro Ciccarelli. Da parte di Daniele Lettige e di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.